un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:36, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Come sapete, i messaggi sms al 349-238-6666, lazanzara@radio24.it è l'indirizzo mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Ballottaggi, il centrodestra fra il pieno di capoluoghi e province, tra cui Milano e Venezia, il PD mantiene i sindaci di Bologna, Firenze e Bari. Berlusconi ironizza con Franceschini, vittoria del PD, vorrei sempre perdere così. Pensioni salatissime per i conti pubblici italiani, l'OCSE lancia l'allarme, assorbono circa un terzo delle spese statali, cresce ancora il debito pubblico e Tremonti invoca nuove regole per la finanza. Milano, orrore davanti a un asilo nido, un uomo accoltella a morte la moglie da cui era separato, la donna aveva in braccio il loro figlioletto di 2 anni, rimasto illeso, l'omicida subito arrestato. Iran, le elezioni non si rifaranno, il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione ha confermato l'esito del voto, si attendono nuove proteste, la Casa Bianca è l'inizio del cambiamento. Piero Stellino sul Corriere della Sera scrive: la forza di Silvio Berlusconi politico è questa, che la maggioranza degli italiani hanno votato e continueranno a votare malgrado la vanità, gli eccessi esibizionistici, certe stravaganze, perché è uno di loro, che piaccia o no, è la democrazia. Sentiamo i titoli di Studio Aperto. Si era separata 4 mesi fa dal marito, lui l'attesa davanti ad un asilo di Milano dove stava portando il bimbo di 2 anni e l'ha uccisa a coltellate. La donna è stata colpita col figlio, rimasto illeso, ancora in braccio. L'assassino è stato catturato dopo una breve fuga, da tempo perseguitava la vittima. Napoli, un'altra brutale aggressione tra l'indifferenza della folla. Un gruppetto di skinheads si accanisce contro un giovane omosessuale. Finisce in rissa, l'unica ad intervenire è una ragazza di 27 anni. Pestata a sangue, rischia di perdere un occhio, ma dice: lo rifarei. Torna la paura in Abruzzo, la nuova violenta scossa, seguita da uno sciame sismico, ha riportato i terremotati indietro di 2 mesi e mezzo. Nessuno è ferito e pochi danni, ma la gente che era rientrata nelle case stanotte dormirà nelle tende. Silvio Berlusconi interviene sulle vicende al centro dell'inchiesta di Bari. Non c'è nulla nella mia vita privata di cui mi debba scusare, dice il Premier nell'intervista che sarà pubblicata domani sul settimanale Chi. Direttori ed editori dei principali giornali italiani, aggiunge, devono scusarsi con me e vergognarsi. Parla lo skipper, è rimasto... Eccoci qui, in questa intervista a Chi, altro che... discorso alle Camere riunite come sognava Ferrara, e anche un po' così un discorso di verità agli italiani, intervista invece al giornale di famiglia, uno dei giornali di famiglia, cioè Chi. Niente di male, naturalmente, però questa è la strategia scelta da Berlusconi. In questa intervista Berlusconi dice anche altro: la Daddario agisce su un mandato preciso, è stata mandata da qualcuno che l'ha benissimo retribuita, io non ho mai pagato una donna. E poi su Veronica, ferita dolorosa, non so se si rimarginerà. Poi c'è la presa di posizione di Famiglia Cristiana, non l'avete sentita nei titoli, Don Sciortino, non nuovo a uscite contro Berlusconi, è stata superata la decenza, la Chiesa adesso parli. Queste le notizie più o meno dell'ultima ora sulla vicenda Berlusconi. Andiamo a sentire però la polemica che è stata scatenata contro il direttore del TG1, Augusto Minzolini, per non avere raccontato bene, avere omesso, avere nascosto nei giorni passati la vicenda da Dario, l'inchiesta di Bari. Oggi Di Pietro è arrivato a chiedere addirittura il licenziamento, Antonio Di Pietro, il licenziamento di Minzolini per giusta causa. Cioè la RAI, secondo Di Pietro, dovrebbe licenziare Minzolini. Sentiamo il leader dell'Italia dei Valori prendersela con il direttore del TG1. Oggi vuole insegnarci che il servizio di informazione pubblica non dovrebbe prevedere informazioni sui fatti di Bari, perché questo sarebbero gossip. È lui che molte volte in precedenza nella sua attività giornalistica si è servito delle false notizie e ha raccontato falsità all'opinione pubblica. Questo Di Pietro incredibilmente intervistato dallo stesso TG1 oggi, cioè, c'è un cortocircuito nell'informazione italiana che è bestiale. Il TG1 intervista Di Pietro, il quale se la prende con il direttore del TG1, una cosa pazzesca. Di Pietro ha il dente avvelenato con Minzolini perché sono in corso diverse cause, lo spiega lo stesso Di Pietro. Io capisco che il direttore Minzolini abbia il dente avvelenato con me. Ho qui 3 decreti di rinvio a giudizio che lo riguardano. Lui che oggi dice che non vuol dare adito al gossip, per 3 volte ha fatto gossip su di me ed è stato rinviato a giudizio, ha avuto anche una sentenza di primo grado di condanna a 4 mesi di reclusione. Per tutte e 3 le volte, ovviamente, la querela è stata ritirata dopo che egli ha riconosciuto il proprio errore, dopo che qualcuno ha pagato per lui il risarcimento danni. Questa è la versione di Di Pietro, naturalmente, sulle cause in corso con Minzolini, che sono poco interessanti. In realtà, ieri abbiamo fatto ascoltare Minzolini, lo riascolteremo oggi. Oggi sui blog gira il Minzolini pensiero su cos'era il gossip, su cos'era la vita privata dei politici. Dopo ve lo dico, perché sembra in netto contrasto con i Minzolini di oggi. C'è chi ha deciso però di non parlare più di queste vicende, è naturalmente Emilio Fede, sentite. Spesso io in questi ultimi giorni ho affrontato solo come riflessione questo grande pettegolezzo con il quale è in atto una sorta di strategia per coinvolgere il capo del governo. Il rispetto che si deve innanzitutto all'opinione pubblica mi impone di non parlarne più in attesa che la verità tutta sia accertata. Io spero, vorrei dirmi, ne sono certo, che non ci sarà nessuna drammatica conseguenza a tutto questo, ma già il fatto psicologico è molto importante. Vabbè, insomma, Fede ha deciso di non parlarne più. 800 24 0024. Franco Bechis, direttore di Italia Oggi. Secondo Bechis, secondo me, tra l'altro ha ragione Bechis, uno degli argomenti di cui parlare è una contraddizione che c'è tra un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri, che ancora però langue in Parlamento, e quello che sta succedendo, se fossero naturalmente vere le rivelazioni venute fuori dall'inchiesta di Bari. Cioè, non si può fare un giro di vite contro la prostituzione, soprattutto contro i clienti delle prostitute, e nello stesso tempo assistere a uno spettacolo come quello cui stiamo assistendo. Bechis. Se la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento fra chi le eserciti e chi se ne avvalga, il cliente. Chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità, anche non economica, anche solo promesse, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Che legge è? Sotto questa legge qui, che è il disegno di legge numero 1079, approvato dal governo di Silvio Berlusconi nel Consiglio dei Ministri di settembre, c'è la firma di Berlusconi. Allora, il tema politico indubbiamente c'è, perché non ha privacy il legislatore che limita la mia libertà in questa maniera. Cioè, lei dice, se il legislatore regola la mia vita, è ovvio che la mia privacy e la mia libertà sessuale, e deve rendere conto di cosa fa lui. Perché se lui si permette di violare la legge che lui impone a me, allora è un tema politico serio, ma anche molto importante. Ma questo tema politico non è stato molto posto. In un paese liberale questo è il tema politico. E non c'è dubbio, questo è uno dei temi politici. Può un governo varare una legge molto restrittiva sulla prostituzione e poi un presidente del Consiglio, naturalmente se fossero confermate le cose di Bari, avere certi comportamenti privati? Ci sono molti altri temi di cui parlare. C'è la vittoria a Prato dopo 63 anni per la prima volta di un sindaco di centrodestra per la questione degli immigrati. C'è la questione soprattutto di chi ha vinto e chi ha perso in queste elezioni, perché come al solito c'è il balletto della politica italiana che si attribuisce tutti hanno vinto, sentite. Mi pare che si possa dire con assoluta certezza che comincia il declino della destra. Avevamo 5 milioni di persone governate in quelle zone che ora sono salite a 21, 4 volte di più. Al nord abbiamo stravinto conquistando anche Milano e Venezia. La gente evidentemente si fida di noi, della Lega Nord. Facciamo la differenza, senza l'UDC questo paese non si può governare credibilmente e soprattutto non si possono vincere le competizioni elettorali. Tutti si attribuiscono la vittoria, addirittura qualcuno ha detto l'Italia ha sconfitto il bipolarismo, gli italiani non vogliono 2 partiti, ne vogliono di più. Insomma, al centro dello scandalo c'è il direttore del TG1 Augusto Minzolini, che ieri, dobbiamo dire, ci ha messo la faccia a un certo punto, dopo diversi giorni, dopo le elezioni soprattutto, e se n'è uscito con questa dichiarazione. Sentiamola, poi un ospite. Ad urne chiuse voglio spiegare a voi telespettatori perché il TG1, malgrado le polemiche, ha assunto una posizione prudente sull'ultimo gossip, sull'ultimo pettegolezzo del momento. Le famose cene, feste o chiamatele come vi pare, nelle dimore private di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli o Villa Certosa. Il motivo è semplice. Dentro questa storia piena di allusioni, testimoni più o meno attendibili e rancori personali, non c'è ancora una notizia certa, né tantomeno un'ipotesi di reato che coinvolga il Premier e i suoi collaboratori. Accade che semplici ipotesi investigative e chiacchiericci si trasformino in notizie da prima pagina nella realtà virtuale dei media o per strumentalizzazioni politiche o piuttosto per interessi economici. È avvenuto in passato, come ricorderete, quando si tentò di colpire il presidente del Consiglio di allora, Romano Prodi, strumentalizzando la foto che ritraeva un suo collaboratore in una situazione definita scabrosa. È accaduto più volte in queste settimane in cui è stata messa sotto i riflettori la vita privata del Premier in nome di un improvviso moralismo. Abbiamo visto addirittura celebri mangiapreti vestire i panni di Novelli Savonarola. Queste strumentalizzazioni, questi processi mediatici, non hanno nulla a che vedere con l'informazione del servizio pubblico. Nella settimana in cui gli Stati Uniti hanno scelto le nuove regole per proteggere il risparmio nel mondo, mentre esplodeva il caso Iran e alla vigilia del G8, sarebbe stato incomprensibile privilegiare polemiche sul gossip nazionale solo per scimmiottare qualche quotidiano o rotocalco. Questa è la linea editoriale del TG1 che vi ho promesso, cari telespettatori, fin dal primo giorno e che continuerò a garantirvi. Allora, Antonio Padellaro, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, a settembre dirigerà il Fatto Quotidiano. Padellaro, nel 1994, questo circola oggi, poi bisogna inserire queste dichiarazioni all'interno di un contesto, per carità, sono cose che circolano sui blog oggi, lo stesso Minzolini diceva la distinzione fra pubblico e privato è manichea, ripeto, un politico deve sapere che ogni aspetto della sua vita è pubblico, se non accetta questa regola rinuncia a fare il politico. Ora, una cosa è fare il retroscenista, una cosa è il direttore del TG1, sono due mestieri diversi e poi magari si ha anche diritto a cambiare opinione. C'è contraddizione però tra quello che abbiamo ascoltato e quella che è stata la vita professionale del direttore del TG1 qualche anno fa? Beh, la contraddizione è clamorosa e io trovo anche debole l'intervento di Minzolini al TG1, debolissimo. Nessuno può decidere che cosa si dà o che notizie si danno o non si danno. Sono notizie che tra l'altro stanno facendo il giro del mondo, non è qualche rotocalco rosa che se ne sta occupando, ma i maggiori quotidiani, perché come diceva Minzolini, fase 1, la vita pubblica e la vita privata di un primo ministro non sono scindibili. Io però trovo una cosa, trovo che Minzolini aveva una straordinaria occasione per fare giornalismo, che poi dovrebbe essere il suo mestiere. Cioè, lui ritiene legittimamente che questa sia una strumentalizzazione contro Berlusconi? Sì. Che ci sia del moralismo? Allora, cosa poteva fare? Poteva intanto dare le informazioni di base. Cioè, che c'era l'intervista alla Daddario, eccetera. Cioè, tutto quello che non è stato riferito nei primi giorni. È successo questo. Poi invitare in studio due polemisti. Uno, diciamo, che pensa che siano gossip, e l'altro magari un editorialista di Repubblica, li metteva a confronto e faceva un servizio all'informazione e anche alla comprensione dei telespettatori. E sarebbe stato inattaccabile. In questo modo, magari dicendo anche la sua, dicendo io penso che siano pettegolezzi. Insomma, io trovo che sia sbagliato mettere la polvere sotto il tappeto, soprattutto quando si fa questo mestiere, perché fai la figura del censore di quello che è stato messo lì per proteggere Berlusconi. Sì, indubbiamente la cosa poteva essere fatta nei primi giorni in maniera diversa. Ieri abbiamo mandato per ben due volte quel servizio del TG1 a firma di Gennaro San Giuliano, se non sbaglio, in cui in realtà l'incipit era la difesa di Berlusconi, poi all'interno c'era tutta una teoria su D'Alema, eccetera. Non si parlava dell'intervista della Daddario. Nei primi giorni alcune notizie non sono state date. Ma detto questo, lei non crede che da parte di alcuni esponenti, non solo dell'opposizione, ma insomma anche della stampa, ci sia una continua polemica su come i telegiornali gestiscono le notizie? In fin dei conti, il vero problema, andando al fondo della questione, è il fatto che i direttori del TG1, del TG2, del TG3 sono espressione della lottizzazione. Questo comunque è una cosa di cui bisogna tenere conto. Poi ci può essere uno più zelante, meno zelante, però la realtà è quella. Non si può pretendere che il TG1 presenti Berlusconi come uno zozzone oppure il contrario, o sbaglio? Ma questo è vero, c'è un difetto d'origine che è quello che lei segnalava. Io credo però che le capacità professionali e soprattutto, diciamo la verità, la scelta iniziale non gliel'ha ordinato il medico a Minzolini di diventare direttore del TG1. Sappiamo che un altro eccellente professionista come l'attuale direttore del Corriere della Sera ha rifiutato Ferruccio De Bortoli, a cui erano stati offerti non la direzione del telegiornale ma la presidenza della RAI, ha rifiutato perché ha detto: io non mi metto a fare il porta ordini dei partiti, della partitocrazia. Sì. Io penso che Minzolini, che è stato un eccellente giornalista, lo riconosciamo tutti, aveva l'occasione per dire: beh ragazzi, io questo TG, il direttore del TG lo faccio, però lo faccio come Dio comanda. Io penso che lui le regole le conosca, perché prima giustamente lei ha citato un'affermazione di Minzolini che è sacrosanta, quindi quelle, non è che Minzolini spunta da qualche università, di partito, sì. Da qualche è un giornalista di prima linea, anzi uno che per la notizia si sarebbe fatto ammazzare, no, pur di difendere la sua informazione, il suo retroscena. Sì. E quindi lui dovrebbe applicare nel suo telegiornale le regole che sono state poi la base del suo successo professionale. Non mettersi a fare quello che decide, questo lo vedete e questo non lo vedete, questo è gossip e questo invece è giusto. È penoso, mi dispiace per lui. Ma questa è prudenza, come dice lui, o è soltanto diciamo il mandato che ha ricevuto? Adesso mi spingo un po' più. Guardi, quando quando io non lo so come Minzolini, ripeto, ha una storia professionale che poteva benissimo legittimamente portarlo alla direzione del TG1, ma quando le nomine vengono fatte, come è stato scritto, senza smentite, nel famoso Palazzo Grazioli, magari tra una apicella è un intervento di una patrizia. Vabbè, adesso questa è una battuta, questa è una battuta, va benissimo, per carità. Questa è una battuta, è una battutaccia. No, diciamo che vengono decise comunque lì. È chiaro che quelle decisioni hanno un'impronta, hanno un timbro, e chi viene scelto per fare un determinato lavoro sa che chi l'ha scelto è il Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio di centrodestra in questo momento, ma anche di centrosinistra, perché anche gli altri direttori di telegiornali, per carità, sono stati scelti con l'approvazione, con la benedizione dei Presidenti del Consiglio del centrosinistra. Sì. Ecco, però io credo che dei professionisti di valore dovrebbero stare attenti, perché queste sono macchie anche nella loro storia professionale. Non c'è dubbio, grazie Antonio Padellaro, buona serata. 18:56 e 40. Pierluigi, provincia di Lecce, dalla Puglia, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Niente, praticamente io ho ascoltato in questi giorni questa faccenda di Berlusconi, dell'ultimo, diciamo, gossip tra virgolette, e ho sentito le tesi di coloro che parlano di complotto contro il Premier. Guardi, a parte che la magistratura deve decidere tutto, chiaramente, però mi risulta che in questa storia è venuta fuori perché la Guardia di Finanza intercettava Tarantini per un presunto giro di tangenti sulla sanità pugliese. Sì. Casualmente si è imbattuto tramite queste intercettazioni in questo altro giro di festine e roba varia. A riprova di tutto c'è che da Daddario c'ha due cassette sono state sequestrate dalla magistratura. Cioè lei dice che il fatto che questa inchiesta sia il frutto di un'altra inchiesta, non può esserci un complotto dietro. Io posso pensare che magari in questo momento la Daddario si sta vendicando, quindi è vero dire che è a comando l'accusa, cioè questa sapeva da un bel po' di tempo tutte queste cose, non ha detto nulla, quando è stata certa di non ricevere questo favore dal Premier, tira fuori la storia. Vabbè, questo possiamo dirlo, però parlare di complotto, un complotto significa che tutte le prove sono false, che le cassette contengono una voce simile a quella del Premier. Vabbè, il complotto può essere anche qualcuno che manovra la Daddario, che manovra dall'esterno la Daddario, ma io non ci credo a questa cosa, penso più alla finanza si presti a questi giochi. Non è questione di guardia di finanza, può esserci qualcuno che spinge la Daddario ad andare da un magistrato, ma insomma io credo che ci sia una questione di mitomania, come è stato spiegato da parte di un personaggio che certamente ha avuto un contatto col Presidente del Consiglio, non so, ancora non siamo certi di che tipo di contatto ci sia stato, ed è semplicemente una persona descritta anche come una mitomane, non necessariamente manovrata per forza da qualche potere che ce l'ha con Berlusconi. I titoli del TG3. Berlusconi sull'inchiesta di Bari, mai pagato una donna, la Daddario ben retribuita per colpirmi, famiglia cristiana, premier indifendibile. Il PDL sui ballottaggi è stata una vittoria indiscutibile, il PD invertita la tendenza, ora comincia il declino della destra. Iran e i guardiani della rivoluzione liquidano la protesta, il voto è valido, Obama condanniamo le azioni ingiuste ma non interferiamo. Allarme della Commissione europea, debito troppo alto, a rischio la ripresa dell'Italia, l'OCSE, spesa pensionistica troppo elevata. Viaggio nei centri di identificazione ed espulsione, il TG3 a Ponte Galeria, periferia di Roma, gli immigrati per noi è una prigione. Rischia di perdere un occhio la ragazza presa a calcio a Napoli da un gruppo di skinheads, era intervenuta per difendere alcuni ragazzi gay. Arriva a novembre il film più catastrofista della storia, 2012 di Ronald Emmerich, racconterà la fine del mondo con un diluvio di effetti speciali. E sentiamo anche i titoli di Sky TG24. Elezioni perderei sempre così, dice Berlusconi, ma per Franceschini è in declino. L'Italia è il paese europeo col debito più alto, preoccupa anche la spesa previdenziale. Vertice con Netanyahu a Roma, Berlusconi appoggia l'ipotesi Palestina smilitarizzata. Tensione Iran-Gran Bretagna, Teheran espelle due diplomatici e Londra fa altrettanto. Obama chiede lo stop alla violenza e avverte il popolo sta decidendo il suo futuro. Lo sfogo del premier Daddario pagata per attaccarmi, ma famiglia cristiana lo critica. Nuove scosse, paura all'Aquila, dalla Camera via libera al decreto per ricostruire. Lei lo lascia, lui la uccide davanti all'asilo nido del figlio, tragedia familiare a Milano. Busta con la metta e minacce alla Hunziker, 36enne condannato per stalking. La nazionale è rientrata, stasera tocca all'Under 21 risollevare il calcio azzurro. Eccoci qui alle 19.18, 800 24 00 24. A proposito ancora della vicenda Berlusconi Gate, Bari Gate, Cime di Rapa Gate, come l'abbiamo nominata, c'è da fare una considerazione che è la stessa che fa oggi Franco Bechis su Italia Oggi. Scrive Bechis: l'unico tema politico in un paese liberale è che chi ha il potere legislativo non vieti ad altri quello che invece concede a se stesso. Per questo oggi quel disegno di legge, il disegno di legge che un po' è rimasto in Parlamento lì a morire, comunque esiste, è stato varato dal Consiglio dei Ministri. Quel disegno di legge, che il governo peraltro ha abbastanza abbandonato, stride con quanto sembrerebbe emergere dalle deposizioni di alcune ragazze davanti alla procura di Bari. Lo dico perché non è uno scandalo, anzi è legittimo che la vicenda Bari si trasformi in polemica politica. Non è invocabile la privacy sullo stesso tema su cui il premier legifera oltretutto in modo assai restrittivo della libertà altrui. In questo modo, nei mesi scorsi, il ministro Carfagna trattava la vicenda prostituzione, uno schiaffo alla prostituzione, dunque colpire anche i clienti. Cerchiamo in questa maniera di dare uno schiaffo durissimo al mercato della prostituzione. Come donna mi fa orrore questo fenomeno, non comprendo chi vende il proprio corpo per trarne profitto, ma comprendo che è un fenomeno che c'è, che esiste, che non si può debellare. Per la prima volta dal 1958 ad oggi si interviene sul tema della prostituzione, prevedendo che essa sia reato, punendo con la medesima sanzione sia chi esercita la prostituzione sia chi se ne avvale. Il nostro obiettivo è quello non di regolamentare questo fenomeno, ma quello di contrastarlo duramente. Come donna, l'idea della prostituzione che sia esercitata sotto forma di cooperative, che sia esercitata all'interno di case chiuse, mi fa rabbrividire. Questo la Carfagna. Adesso andiamo a sentire perché pone un problema che è quello del linguaggio. Nei giorni scorsi ci sono arrivati molti messaggi, molte mail dopo un intervento di Vittorio Sgarbi, un intervento coloritissimo di Vittorio Sgarbi come al solito, in cui però insomma usava un linguaggio molto esplicito, molto chiaro secondo me a tutti, e però provocatorio, pesante, degli epiteti che di solito non si sentono in radio né in televisione, ma noi siamo un po' sui generis e li accettiamo volentieri. Ora, il problema però esiste, è giusto utilizzare per radio, in televisione, parole di questo tipo, tipo quelle che ha utilizzato per esempio ieri Paolo Liguori, questa mattina anzi a Omnibus? Lo scandalo di cui ci vorremmo occupare, di cui ci dovremmo occupare, è il fatto iniziato 2 mesi fa del presidente che si fa portare le vergini oppure del presidente che riceve le mignotte? Perché c'è una bella differenza tra le vergini e le mignotte. Lo dico per farvi capire nella sostanza. Apprezzo la disinvoltura del pensiero, a quest'ora un po' meno la disinvoltura del linguaggio. Noi siamo partiti a piangere sul letto delle povere vergini sacrificate a Berlusconi e sono finite le vergini. A quel punto, diciamo, sono cominciate le mignotte. Ma dica per i patetti che usi un'immagine soave. Allora nel caso escort. Non è guardate che quando noi parliamo diciamo in maniera educata, diciamo la signora e intendiamo con le virgolette, non è meglio, non è più gentile o più carino, quindi posso chiamarla la signora. Insomma, quali parole si possono utilizzare e quali parole invece urtano la suscettibilità di qualcuno? Secondo me tutto è possibile, naturalmente detto in un certo contesto e non così per provocare e basta. Dove andiamo? Andiamo a sentire proprio quello che Sgarbi ci ha detto, la sintesi di un linguaggio molto colorito di Sgarbi, è qualche secondo, due o tre giorni fa. Il tema è sostanzialmente questo, che il premier deve convocare la conferenza stampa e fare la seguente dichiarazione. Mi piace la gnocca, non rompete i coglioni. Ma siccome qualunque istituzione caga, scopa, piscia e mangia, allora non è che dobbiamo stupirci che se una va a scopare con Berlusconi e riprende la scopata, è un problema di cui a un certo punto dovremmo anche darci ragione. Scopare non è un reato, è un fatto curativo, la gnocca cura. Cioè, se uno scopa bene, come Kennedy è il modello di Berlusconi. Gli portavano una ragazza. Questo è Sgarbi. Insomma, è qualcosa che dovremmo cancellare, o qualcosa che ci fa divertire, un linguaggio che dobbiamo accettare, oppure è eccessivo? Non so se l'orario, come diceva il direttore del telegiornale della Sette, Piroso, in questo caso non vada bene alle 19:22. Però questo abbiamo ascoltato ieri, l'altro ieri, dalla voce di Vittorio Sgarbi. 800 24 00 24. Alla RAI non succede solamente qualcosa intorno a Minzolini. Radio 1, Radio Anch'io, che è un grande programma di attualità che va in onda alle 9 di mattina, il conduttore è Giorgio Zanchini, che è peraltro una persona che conosco, un bravo giornalista, il quale questa mattina ha ricevuto una telefonata, anzi no, questa mattina, il 23 di giugno, ogni tanto perdo il senso della realtà. Che giorno è? 23 giugno, dunque stamattina. Cosa è successo? È successo che un ascoltatore, in realtà è una vecchia conoscenza delle radio, si è presentato come Marco da Prato, ma in realtà non è Marco da Prato, è un ascoltatore che chiama un po' tutte le trasmissioni e quando viene filtrato, perché giustamente ci sono dei filtri, poi protesta dicendo che è censurato. L'uomo è fatto così, è un personaggio piuttosto bizzarro, è uno di quelli che scrivono sul blog di Grillo, che se la prende con chi non dice che la classe politica sono tutti dei mafiosi, dei criminali, eccetera eccetera. Ma non voglio fare polemica con nessuno, per carità, se no riceviamo 100 mail nei prossimi giorni. Però sentitelo in azione questa mattina, si presenta come Marco da Prato, ma non è Marco da Prato. Marco ci chiama da una delle città più evocate in questa trasmissione, insomma, di cui più si è parlato, Prato. Marco, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, brevemente, da elettore di sinistra e non del PD, perché continuare a chiamare PD partito di sinistra si fa un falso. Cioè, uno può chiamare come vuole, ma chiamare PD sinistra, anche alcuni ascoltatori associano il PD alla sinistra, questo è un falso. Comunque, al di là di questo, io da persona di sinistra non sono andato a votare a Prato. Che senso ha votare per un partito che poi ha gli stessi programmi o poco o con pochissima differenza del PDL? Seconda cosa, l'onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane lo si chiama gossip? Marco, però c'è modo di linguaggio, si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno. Non è gossip, riguarda la nazione questo, Marco, un'opportunità. No, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere. Marco, Paolo Bonaiuti, perché la disaffezione crescente? Guardi, anzitutto io mi dichiaro stupito francamente per le decisioni davvero poco riguardose, quelle sì che mi imbarazzano, usate in una trasmissione pubblica nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma gli ascoltatori non è li controlliamo. Ho capito, nessuno le chiede di controllare, però le si chiede anche di censurare. No, ho detto modelli di linguaggio. Nei confronti, mi perdoni, chi si esprime nei confronti di chiunque con un linguaggio volgare che non ha niente a che fare con la discussione politica che stiamo facendo, perché è un servizio pubblico e quindi le idee di quell'ascoltatore non coincidono con quelle della maggioranza degli italiani, quale risultano dal voto, che è l'unico metro di giudizio che esiste nella politica. Ora, questo ascoltatore che ogni tanto si firma Paolo Papillo ha detto quello che ha detto, ma ancora peggio Bonaiuti, che dice le opinioni di questo ascoltatore non coincidono con la maggioranza degli italiani. Insomma, qual è il punto? Perché anche se l'opinione di questo ascoltatore non coincide con la maggioranza degli italiani, non può dire nulla, oppure le sue opinioni valgono di meno? E poi ha un po' bacchettato il conduttore di Radio Anch'io dicendo: no, mi scusi un attimo, Zanchini che doveva fare? È stato lì, ha detto, guarda, insomma, l'ha un po' liquidato e via, è passato ad altro. Questa è la realtà. D'altra parte, questo personaggio può essere soprannominato, forse gli faccio un favore, così diventerà, non dico famoso, però protagonista magari nei prossimi giorni di articoli eccetera, è una sorta di Paolini della radio. Paolini, non Davide Paolini, nostro Davide Paolini per carità, bensì quel Paolini che ogni tanto si mette dietro le telecamere del TG1, del TG5 e insulta un po' tutti. È fatto così, ha 3-4 telefonini, chiama le radio, le trasmissioni. Vabbè, ascoltatori. Piero da Bari, buonasera. Buonasera Cruciani. Senta, ha ragione lei, in Italia ci sono tanti Paolini, tanti Marco, però questo dovrebbe dirlo a Marco Travaglio, il quale ieri addirittura mi sembra che avesse paragonato l'Italia all'Iran. Sì. Ma sa Marco Travaglio che in Iran non gli sarebbe data possibilità alcuna di parlare? Comunque, io sono d'accordissimo con Sgarbi. Piero, mi scusi un attimo, naturalmente... Adesso sembra un paradosso che io difenda Travaglio, per carità, ieri abbiamo detto che il paragone con l'Iran è esagerato e non c'è dubbio che sia esagerato, ogni tanto però si utilizza, ma Travaglio utilizza anche il paradosso, l'esagerazione un po' per andare al cuore del problema, no? Che è secondo lui questo dell'assenza di libertà di stampa in Italia. Giustamente lei dice, beh, in Iran Travaglio l'avrebbero già messo nel tritacarne, insomma, o no? Appunto, perciò Travaglio stia attento a dire che l'Italia è come l'Iran, perché sobbillerebbe la popolazione italiana, cioè farebbe davvero, fa il demagogo, ma non speri che gli italiani lo seguano, perché l'italiano è un popolo intelligentissimo, come è intelligente, oltre che prudente, anche saggio, Minzolini, il quale ha sposato la causa di tutti gli italiani, i quali non vogliono più sentir parlare di gossip. E la Chiesa, famiglia cristiana, stia attenta a condannare Berlusconi, condanni piuttosto la pedofilia di Vabbè, Piero, adesso la pedofilia non c'entra niente, la Chiesa non c'entra nulla, perché è l'opinione di famiglia cristiana. Lei difende Minzolini, va benissimo, ognuno può difendere chi vuole, secondo lei ha fatto bene a non interessarsi al gossip. In realtà in questa vicenda non c'è solo gossip, c'è il gossip, ma come abbiamo ormai detto da diversi giorni, non c'è solo gossip. E inevitabilmente, ve l'avevo detto, Paolo Papillo, eccolo qui, subito un messaggio, segue tutte le trasmissioni, è incredibile. Il Paolini della radio, sentitelo in azione questa mattina a Radio Anch'io, in versione ridotta naturalmente. Onorevole, buon... non aiuti, ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane lo si chiama gossip? Marco, però c'è modo di linguaggio, Si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno. No. Non è gossip, riguarda la nazione questo. Marco, un'opportunità, no, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere. Marco, insomma, questo è Paolo Papillo, che poi non so bene come si chiami. Paolo Papillo, qualche volta si presenta con un altro nome, cambia i telefoni, cerca di superare i filtri. Prima ha mandato un messaggio, i filtri che esistono. Naturalmente in tutte le trasmissioni, almeno noi ce l'abbiamo, per un mese dopo che si è intervenuti una volta non si può intervenire ancora, non è che abbiamo filtri particolari, ognuno può dire quello che vuole. Prima mi ha mandato un messaggio in cui ha detto lei è un fascio, poi mi manda una mail nello stesso tempo in contemporanea, non si capisce come fa, perché pare faccia il camionista, per cui insomma è in azione su diversi fronti. Scrive una mail dicendo mi faccio intervenire, le prometto che non sarò volgare, ma il punto non è quello, non è la volgarità che ha usato o la parola che ha usato, per carità, la permettiamo a Sgarbi come la permettiamo a un altro ascoltatore, basta che sia inserito in un contesto, in un discorso e non sia fine a se stessa. Il punto è che questo personaggio appunto fa incursioni praticamente in ogni radio dove ci sia un talk, persone che parlano cercando di dire la sua, il Paolini della radio. 19:35, dove andiamo? Andiamo a Serafino, provincia di Brescia. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo fare un commento per quanto riguarda... Tra l'altro, mi scusi Serafino, l'altro devo dire la verità, sulla questione che i politici ripetono sempre le stesse cose, ha perfettamente ragione, ogni tanto riportato nel binario della normalità, anche il Paolini della radio esprime delle cose assolutamente, almeno secondo il mio punto di vista, condivisibili, logiche, anche provocatorie. Certo che poi mi fa passare come una sorta di tiranno della radio, manda messaggi al blog di Grillo inferociti contro il sottoscritto, vabbè, ma insomma ci sta. Serafino, dica. Volevo fare un commento che riguardava sia le dichiarazioni di alcuni politici del dopo voto del referendum e che deve invitare anche una riflessione su quorum, che è la regola che, diciamo così, stabilisce la validità o meno del risultato del referendum stesso. Ci mancherebbe, c'è una regola e va rispettata, però una riflessione sulla democraticità, se si può dire, del quorum bisognerebbe farla, e mi spiego. Abbiamo dei politici che raccontano della gente che vorrebbe più partiti anziché il bipartitismo che si è andato stabilendo negli anni a venire. A mio parere invece alla gente, al popolo italiano, in realtà non viene permesso di esprimersi, e lo argomento, e questo vale un po' per la regola, per tutti i referendum che in che senso non viene consentito di esprimersi, mi scusi? Mi spiego, lo argomento, praticamente se facciamo una riflessione sulla percentuale dei votanti mediamente, siamo ottimisti, va a votare l'80% della popolazione, forse l'85%, in alcuni casi anche al di sotto dell'80%. Che cosa vuol dire questo? Che c'è una percentuale della popolazione alla quale non gliene frega semplicemente di andare a votare. Se prendiamo per buono più o meno una media dell'80% di votanti, vuol dire che c'è un 20% che non va a votare. Che cosa vuol dire questo? Ma adesso la media si è abbassata negli ultimi anni, Serafino, non è più l'80%, quindi vabbè, allora insomma arrivi al succo del discorso. Non ancora di più, dove voglio arrivare? Quello degli astensionisti lo si potrebbe paragonare a un partito politico. Partono già con un vantaggio di un buon 20%, se non di più, addirittura di gente che non andrà comunque a votare. Giusto. Per allora... cui per arrivare al famoso quorum è un po' più difficile da raggiungere, perché partono già con un vantaggio di gente che non va a votare. Ma Serafino, lei ha ragione. Dunque, una partita di calcio un po' truccata, perché chiaramente chi è per il no, diciamo, ha a disposizione anche l'astensione, anzi l'astensione è meglio del no. Ora però le voglio chiedere, Serafino, lei dunque cosa propone? Eliminare il quorum? No, sì, ecco, è qui che volevo arrivare io. Secondo me bisognerebbe abolire il quorum per per forzare anche i partiti politici a spiegare, ad argomentare alla popolazione perché dovrebbe votare per sì o per no. Ho capito, allora, Serafino, lei è molto chiaro. Qualcuno propone di alzare il numero delle firme a 2 milioni addirittura, 2 milioni di firme abolendo il quorum. Dunque molto difficile fare un referendum, però quando c'è una grande spinta popolare per un referendum, poi a quel punto le forze politiche o comunque l'opinione pubblica sarebbe spinta a votare o sì o no, insomma a partecipare davvero al referendum. Effettivamente insomma, ormai il referendum con questa questione dell'astensione, non si raggiunge un quorum dal 95, è uno strumento che ha perso di consistenza. Carmelo da Roma, buonasera. Buonasera. Carmelo, la sentiamo malissimo. Roberto dalla provincia di Bari. Dica. Niente, innanzitutto un piccolo, mi viene da sorridere se penso a questo vento di moralismo, no? che ci sta attraversando per le vicende che riguardano il Presidente del Consiglio. Mi viene da sorridere se penso che il mio Presidente di Regione si vanta di partecipare a un Gay Pride quando è successo a Torino. Beh, ma che c'è, scusi, è una battuta, ma cosa c'entra la partecipazione a un Gay Pride? C'entra nel senso che si fa del moralismo sui comportamenti personali del Presidente del Consiglio e non si valutano gli altri. C'è uno strabismo nel valutare le persone. Guardi, ecco che qualcuno faccia moralismo, non c'è dubbio. Secondo me è combattuto il moralismo sulla vita privata di Berlusconi. Però francamente la partecipazione al Gay Pride da parte di Vendola o di qualcun altro non c'entra assolutamente nulla con quello che accade nelle stanze di Palazzo Grazioli. Non è la parte, adesso finisce che facciamo sterile polemica su questo, no, non mi interessa. A me interessa soltanto dire che probabilmente qui noi in Italia viviamo una personalizzazione del potere che è una cosa sconosciuta fin dai tempi, probabilmente ai tempi del fascismo era così, ma che ci porta ad avere una mentalità aperta quando si tratta di giudicare quello che succede altrove, semmai negli Stati Uniti, Clinton, in Inghilterra, il principe Carlo, anche in Francia con Sarkozy. Quando si tratta poi di giudicare quello che facciamo noi o quello che riguarda il nostro presidente, ci riscopriamo bigotti. Male ha fatto Minzolini quindi a porre una qualche censura alle notizie, perché la notizia va commentata, secondo il mio modesto parere, da un giornalista, non va censurata. È il senso comune della gente, è la capacità di intercettare l'umore dell'opinione pubblica a stabilire che cosa è notizia. Quando ci saremo abituati, penso, io spero, a vedere come democrazia completa e matura, a individuare il potere nel Presidente del Consiglio, cosa che in passato non è stato mai perché comandavano le segreterie, probabilmente questo genere di problemi svanirà. Falsi problemi che svaniranno dal nulla. Vabbè, l'ultima parte del suo ragionamento non l'ho capita, con i poteri del Presidente del Consiglio. Comunque andiamo avanti con Alfredo da Roma. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Io mi riferivo a Minzolini, al direttore. Sì, Il caso Minzolini, che insomma voglio dire, ci è stato per me una buccia di banana, insomma, perché è una persona molto intelligente e molto spiritosa, perché l'ho vista in televisione. Volevo dire, quando dice che non si interessa del gossip, siccome per lui è gossip, allora dovrebbe fare come gli altri giornali, mandare il miglior giornalista per vedere se è gossip o c'è qualcos'altro, o il più grande telegiornale italiano deve aspettare che qualcun altro risolva il problema. Dimostra molto poco coraggio. Adesso siamo tutti come siamo tutti commissari della Nazionale di Calcio, adesso siamo tutti direttori del TG1 naturalmente, dunque diamo su tutti i consigli su cosa avrebbe dovuto fare Minzolini. L'ha fatto prima Antonio Padellaro, adesso lei, magari qualcun altro. Cosa avrebbe dovuto fare secondo lei Minzolini? Mandare un giornalista per vedere. Quando succede un qualcosa, no? Dice, succede un caso, mi pare che quando c'è un'inchiesta a Bari, eccetera, eccetera. Allora si manda un giornalista, una truppa, un giornalista, un qualsiasi cosa, mi vai a vedere lì questo problema, che cosa è? Mi vai a vedere cosa c'è di vero? Questo è far giornalista. Io non è che voglio insegnare niente a nessuno, ma è così. Mentre anche Fede, quando Fede dice non parlo di questo, ma ha dimostrato che su molti altri casi insomma ci hanno zuppato, come dicono a Roma, bene il biscotto, insomma ha proseguito tante cose, ma questo perché riguarda una persona a lui cara, non se ne interessa, dimostra, vede che c'è, forse alla fine diciamo come dice Franceschini, dimostra da chi è pagato. Allora se invece un giornalista dice io sono un giornalista e faccio il mio lavoro, io quello devo fare, che poi dopo possa avere un occhio di riguardo, è normale che ci sia, però che lo addirittura, come ha detto lei, vogliamo nascondere la polvere sotto al tappeto, insomma, o aspettiamo gli altri che risolvono il problema. Va bene, Alfredo, no. la ringrazio. Francesco, provincia di Cagliari, buonasera. Buonasera, io chiamavo a proposito del diritto alla privacy, costituzionalmente riconosciuto al popolo sovrano, come quello di essere informati liberamente, senza omissioni e coercizioni. Ricordo che il reato di coercizione era punito con 15 anni di carcere. Che c'entra la coercizione, mi scusi? Perché ci troviamo di fronte ad informazioni che arrivano a valanga e che ottengono il solo risultato di spiazzare le persone, di creare delle tifoserie, senza mai chiarire realmente i termini oggettivi delle questioni, che dovrebbe essere il compito del giornalismo. E l'esempio classico è quello di Minzolini. Non ha chiarito, ha omesso. Ecco, l'omissione a un popolo sovrano non è consentita, tantomeno dal TG, della rete ammiraglia. Sì, in questo caso c'è una difficoltà, Francesco, che è quella, in una vicenda così complicata, di tradurre quello che esce sui giornali in qualcosa di televisivo. È evidente che lì c'era una notizia, cioè il fatto che il Corriere della Sera parla di un'inchiesta che è quella di Bari, fa un'intervista a una signora che si chiama Patrizia Daddario. Insomma, queste notizie nei primi servizi del TG1 non sono state date in maniera chiara. Si è parlato delle reazioni di Berlusconi, si è parlato della scossa di D'Alema e quant'altro. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Detto questo, non si può rimproverare a Minzolini di avere una linea su questo, una linea editoriale che ha chiarito ieri, mettendoci la faccia nel suo editoriale, nel suo intervento al TG1. Può piacere, può non piacere, è così, è una linea editoriale che ha scelto, e speriamo che questa linea editoriale venga tenuta anche su altri casi, naturalmente. Poi qualcuno parla di servilismo perché riguarda il Premier, eccetera. La ringrazio. Io credo che le accuse a Minzolini ci sarebbero state in ogni caso, qualsiasi cosa avesse fatto il TG1 nei giorni scorsi sarebbe stato attaccato, perché l'attacco al direttore del TG1, come al direttore del TG2, come al direttore del TG3, ma soprattutto al direttore del TG1, è una sorta di sport nazionale della politica. Veniva attaccato il TG1 dal centrodestra quando c'era qualcuno nominato dal centrosinistra, viene attaccato il direttore nominato dal centrodestra, oppure quando al governo c'è il centrodestra, dal centrosinistra. Siamo, insomma, alle solite, non è che cambia molto la storia. La ringrazio. Carmelo da Roma. Salve. Dica. Niente, telegrafico. Mi ricordo per esempio il fatto di Mitrokhin, se lo ricorda, il dossier Mitrokhin di quel delinquente lì. Ne hanno parlato fino all'infinità, fino al vomito, poi non era vero nulla, però quello andava bene al popolo di destra. Io non, assolutamente non voglio dire. Riguardo la Daddario, voglio dire, tutta questa scandalo che questa qui sta dicendo delle robe, io mi ricordo benissimo una signora, probabilmente molto più intelligente magari, la signora Ariosto, la compagna di Vittorio Dotti di Forza Italia, vorrei ricordare ai telespettatori, accusò il Cavaliere e poverina finì nel dimenticatoio. È finito quasi. Sì, no, non mi pare che gli accusatori del Cavaliere vivano tempi grami o abbiano vissuto tempi grami in questi 14 anni. Non mi pare, però, francamente. No, voglio dire, comunque il povero Vittorio Dotti è stato costretto, peggio sì, di starti zitto che è meglio per te. L'Ariosto, poverina, è finita, lei lo saprà meglio di me. Sì, guardi, Carmelo, francamente, se lei vuole dire che gli oppositori del Cavaliere vengono zittiti o finiscono male, francamente in questi 15 anni abbiamo assistito a soprattutto al fatto che gli oppositori di Berlusconi abbiano campato sull'opposizione a Berlusconi, non il contrario, no? Sono d'accordo con lei, ma alcuni, probabilmente forse i migliori, magari sono finiti male. Che cosa pensa lei? Non è così, non la penso come lei. 1947 800 2400 24. Paolo Liguori, direttore del TG.com, buonasera, ciao Paolo. Ciao. Il linguaggio che si deve utilizzare in televisione, questa è la prima questione di cui vogliamo parlare con Paolo Liguori, perché questa mattina sentivo un po' distrattamente, però a un certo punto molto attirato, Omnibus, e ho sentito Paolo Liguori utilizzare queste espressioni, un po' rimproverato, come sentirete, dal direttore del telegiornale della Sette, Piroso. Lo scandalo di cui ci vorremmo occupare e di cui ci dovremmo occupare è il fatto, iniziato 2 mesi fa, del presidente che si fa portare le vergini oppure del presidente che riceve le mignotte? Perché c'è una bella differenza tra le vergini e le mignotte. Apprezzo, lo dico per farvi capire nella sostanza. Solo una cosa, apprezzo la disinvoltura del pensiero, a quest'ora un po' meno la disinvoltura del linguaggio. No, glielo dico profondo. Noi siamo partiti a piangere sul letto delle povere vergini, sacrificate a Berlusconi, e sono finite le vergini. A quel punto, diciamo, sono cominciate le mignotte. Ma dica per i patetici, che usi un'immagine soave. Questo è successo. Ora, per farsi capire meglio, è giusto utilizzare alcune parole che sono diventate di uso comune, lasciamo perdere vergini, ma insomma mignotte invece che escort. Invece va bene proprio la contrapposizione, lo facevo per spiegarmi e mi spiegavo in relazione a un contenuto molto alto che però non viene capito, e allora se non viene capito perché è molto alto bisogna abbassarlo un po'. Il contenuto molto alto è il seguente: è giusto che tutti diamo le notizie, ma si può continuare con questa solfa che se uno non accetta la stessa gerarchia di notizie che suggerisce Repubblica è un verme, un porco, un venduto, un corrotto? No, assolutamente. Questo viene detto tutti i giorni, è vero, Natalia Aspetti, eccetera. Allora io dico, siccome ieri, sentendo diciamo la tua rubrica che io sento tutte le sere, ho sentito un giornalista noto, ma che in vita sua non ha mai dato una notizia, ha dato soltanto le sue opinioni e anche carte giudiziarie, e si chiama Travaglio, insultare in maniera inaudita un giornalista che io conosco da 30 anni, che si chiama Minzolini, che è certamente il giornalista che ha dato più notizie di tutti. Qual è il reato che ha commesso Minzolini? Di non accettare la stessa gerarchia che propone Travaglio e che impone Repubblica. Allora, siccome ieri la... Ma guarda, scusa, ti interrompo un attimo, sono d'accordo con te su una cosa. Aspetta, allora vengo al linguaggio. Sì. Allora, ho detto... Se voi volete che mi occupo di questo scandalo, mi devo occupare dello scandalo secondo la prima versione o la seconda versione? Tu sai che tutti questi nostri colleghi dicono escort, poi dicono la signora, come faceva Walter Mattau quando diceva le virgolette e faceva così. Per edulcorare, secondo te, per dare importanza a questa persona. Allora, quando si dice di Patrizia D'Addario la signora, si fa un'ipocrisia bestiale, con un grande offesa alle signore. Allora, bisogna chiamare, se si vuole chiamare il rude cronista a fare la cronaca, bisogna dire che io il termine escort non lo sento nominare nei bar, e parlare alla fine di una cosa popolare come questa, aizzare le folle senza dire le cose come stanno, e allora la signora, non voglio usare questo termine, la D'Addario è una donna che presta le sue cose a pagamento ed entra con un registratore con l'idea di registrare. Allora io ho detto, almeno cerchiamo di capirci, abbandoniamo le ipocrisie, non intendo seguire un filo di ragionamento che non è il mio ma che mi è imposto, e non intendo seguire uno scandalo che nasce in un modo e prosegue in un altro, che significa che chi fa queste cose non ha intenzione di dire la verità, ha intenzione solo di fare lo scandalo. Ti faccio un esempio che stamattina non ho detto. Decine di giornalisti, cronisti, sono andati a Bari e sono andati a fare la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima intervista alla D'Addario. Sì. Qualcuno ha dato una notizia in più sull'origine dello scandalo che porta a conoscere prima Tarantini e poi l'esistenza della D'Addario? È uno scandalo della sanità che riguarda la giunta della regione Puglia. No, adesso questo scandalo è scomparso nelle cronache. Questo scandalo è scomparso, c'è solo la D'Addario perché c'ha il suo registratore. Questo però, Paolo, questo era un mostro, un mostro perché frequentava le vergini, anzi la donna del primo turno delle elezioni, eroina simbolica, era Veronica. Sì, adesso il discorso delle simbolica del ballottaggio è Patrizia. Sì. Ieri a Bari, e questo sostiene Antonello Caporale su Repubblica, il sindaco Emiliano è stato portato a spalla al grido di Patrizia, Patrizia. Sì. Allora, rifiuto questo tipo di gerarchie per cui un qualsiasi giornalistucolo di Repubblica può insultare dei vecchi cronisti con esperienza e coraggio solo perché non la pensano come lui. No, ma questo sulla gerarchia che viene imposta che bisogna seguire per forza. Questa si chiamava egemonia. Sono d'accordo. Ai tempi in cui ero ragazzo si chiamava egemonia ed era quella cosa secondo la quale l'allora Partito Comunista poteva prendere i suoi alleati di sinistra, ma non comunisti, e trattarli come dei pezzi. Ora, però, dei pezzi. Però quando tu, quando se si vanno, io è una cosa che odio, però ho dovuto fare negli ultimi giorni, forse se mi ascolti l'avrei certamente sentito anche te, certo. Io odio fare la vivisezione dei servizi del TG1, lo no, trovo io, io ho fatto, ho sentito e ho capito perché tu hai fatto questo, e ho capito anche perché tu metti a confronto le cose. Ieri hai dato delle risposte molto accorte a gente che esagerava, con dei giudizi del tutto personali, spacciandoli per giudizi oggettivi. Allora, e lo fai in continuazione. Allora io ti dico una cosa, è vero, e non c'è dubbio che sia vero, che nei primi giorni c'è stata quella che Minzolini dice una prudenza, è vero, c'è stata grande prudenza da parte del TG1, è vero che bastava fare un'operazione molto semplice, sarebbe stato attaccato lo stesso su tutti i fronti, perché questo è lo sport nazionale. Minzolini ha detto quello che pensa, e quello che pensa Minzolini, che mi ha fatto risentire questa mattina Piroso, sì. Io lo condivido. Sì. E ne condivido l'onestà, ne condivido la lealtà. Però non bastava dire, c'era un'intervista questa mattina di Patrizia Daddario sul Corriere della Sera in cui dice che sono state pagate. Ma sì, bastava dirlo, ma non è obbligatorio ripetere ogni minuto quello che i giornali ci propongono. Questa notizia ha gli effetti dell'unica inchiesta giudiziaria che è depositata a Bari, e che nei confronti di imprenditori. Beh, poi se n'è aperta un'altra, per induzione alla prostituzione. Ecco, se n'è aperta un'altra. Questa notizia, però, non dà nemmeno un elemento, perché nessuno dà un elemento su chi è incriminabile per quelle truffe sulla sanità. No, ma io sono d'accordo che non bisogna seguire i giornali sempre, su questo sono d'accordo con te, la gerarchia che qualcuno pensa si debba dare delle notizie, per carità, non è quello il punto, però insomma sarebbe in realtà bastato pochissimo in quelli, tu in quel hai detto questo, bellissimo, io l'ho messo sul mio blog come commento ed editoriale, questo pezzo sul Foglio oggi, Andreas Berschan, che dice a quelli che si sentono in diritto di insultarti eccetera, perché non la pensi come loro, tirando del viscido, del corrotto, a me lo dici, a me lo dici. Io vorrei rispondere: sono una modella, non sono una escort. Bene. È molto ironico, molto carino, io trovo che sia una giusta risposta, se la vogliamo prendere più bassa e non farci il sangue amaro per queste stupidaggini. Però è anche vero che io vedo dei giornalisti spaventati da questa macchina di omologazione che è diventato il gruppo La Repubblica, per cui sono spaventati perché si sentono in dovere. Guarda, ho sentito Giuliano Ferrara 3-4 mattine fa, intervistava Bonini e intervistava la Sarzanini. Esatto. Il paradosso, e lo dico ai tuoi ascoltatori perché saranno gli stessi come me, il paradosso era che Bonini rivendicava notizie e campagna. Sì. La Sarzanini, che lavora per il Corriere e quindi evidentemente lavora su una testata che non ha fatto la campagna, ma presume di aver dato solo le notizie, ma lei è la cronista che ha dato le notizie, rivendicava la campagna che fa la Repubblica. Sì, no, secondo me la pensavano allo stesso modo. È giustissimo quello che... Allora, se la deve pensare allo stesso modo, noi siamo di fronte a un'omologazione, perché addirittura il direttore del giornale suo non la pensa così. Sì. Ma lei di quale affidabilità e di quale credibilità si può vantare se poi la pensa come il giornale concorrente? Bene, grazie. Questo Paolo. È come quando i provider telefonici fanno tutte le stesse tariffe. C'è un antitrust che dice fermi, l'utente ha diritto alla concorrenza. Allora io dico agli italiani che ci ascoltano, fermi, abbiamo almeno diritto alla concorrenza. Non voglio dire che la maggioranza non voglio dire che la maggioranza ha diritto a voci di maggioranza, che sarebbe anche giusto, no, anche di minoranza, ma il diritto alla concorrenza, rispettate la concorrenza. Bene, grazie Paolo Liguori, grazie. A presto. A siamo qui alle 8 in punto, andiamo a sentire i titoli del TG5. Il PDL avanza da 9 a 34 province, 14 comuni. Berlusconi ironizza, vorrei sempre perdere così. Soddisfatti Lega e UDC, Franceschini, per il rilancio guardiamo ai giovani. Berlusconi campione di pace, grande amico di Israele, così il premier israeliano Netanyahu in visita a Roma. Pieno accordo per una Palestina smilitarizzata. Iran, Obama, deploriamo la violenza ma non interferiamo. Da Nedà uccisa a Teheran al ragazzo di Tiananmen, i simboli della lotta all'oppressione. L'OCSE, troppo alta in Italia la spesa per le pensioni. Da Bruxelles, apprezzamento per le misure anticrisi. In 5 mesi scoperti dalla finanza 14 miliardi di evasione. Sì, definitivo della Camera, diventa legge il decreto per la ricostruzione in Abruzzo. Dopo la forte scossa di ieri, la terra trema ancora e torna la paura. Io mi sbracciavo, ma le navi non mi vedevano, parla lo skipper salvato dopo 34 ore nel mare in burrasca. L'ondata di maltempo investe il sud. Scrive ti amo con lo spray sul muro di casa di una ragazza, a un 15enne di Trieste, 7.000 euro di multa. Beh, ci vorrebbe un po' di prudenza, in questo caso forse è il termine appropriato, con tutti i graffiti e le schifezze che ci sono sui muri in Italia. Punire qualcuno con 7.000 euro di multa per scrivere, per aver scritto ti amo, mi sembra un'esagerazione. Come al solito non ci sono misure per queste cose in Italia. Andiamo a sentire il TG1. Iran, Ahmadinejad è pronto a insediarsi nonostante le proteste, Obama condanna le violenze, vertice Berlusconi-Netanyahu. Centrodestra passa da 9 a 34 province, da 4 a 14 comuni, maggioranza, vittoria chiara, PD, nessun rinvio, congresso a ottobre. Berlusconi si difende, la Daddario, test dell'inchiesta di Bari, agisce su mandato e dietro pagamento, mai pagato una donna. Terremoto in Abruzzo, diventa legge il decreto del governo, forti scosse nella notte, molta paura, nessun danno. Milano, accoltellata con il figlio in braccio davanti a mamma e bambini dell'asilo. Arrestato il marito, l'ha uccisa per gelosia. I cinesi all'attacco di Bordeaux. Château Richelieu, storica azienda francese, passa nelle mani del gigante asiatico a caccia di bottiglie prestigiose. E vabbè, abbiamo beccato oggi il Paolini della radio, quello che imperversa dappertutto con i suoi telefonini, cerca di intervenire in qualsiasi trasmissione. Questa mattina a Radio Anch'io, sentite. L'onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane non si chiama gossip? Marco, però c'è modo di linguaggio, Si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno. No. Non è gossip, riguarda la nazione questo. Marco, un'opportunità, no, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere. Marco. Giuseppe da Livorno, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Da elettore di sinistra devo dire che ho apprezzato molto e condivido l'intervento di Liguori, il che mi fa piacere perché si denota l'indipendenza mentale, insomma, di professionisti quali siete voi e di giornalisti. Quello che volevo farvi notare di questa vicenda, che mi sono fatto questa mia personalissima opinione, è che della pochezza dell'opposizione alla quale io in teoria farei parte, perché da un po' di tempo ormai si sta notando un'assoluta mancanza di opposizione politica e si nota invece un'opposizione di carattere mediatico da parte dei gruppi editoriali, e che utilizzano poi una pari opportunità alla rovescia, nel senso si attacca Berlusconi utilizzando varie signore, da sua moglie e poi altre vicende che appartengono oggettivamente comunque alla sfera personale e privata del Presidente del Consiglio. Lei è sicuro che questa vicenda attiene solo alla sfera privata del Presidente del Consiglio? Non ci sia un problema, come scrive per esempio il direttore dei Riformisti e altri ancora, che riguarda la ricattabilità, il decoro delle istituzioni, l'accesso incontrollato, insomma l'accesso più o meno libero, che oggi Berlusconi tra l'altro ha rivendicato a Palazzo Grazioli in un'intervista a chi, anticipata dall'agenzia, ha detto: beh, io non faccio le perquisizioni a nessuno quando ci sono delle persone che mi vengono a trovare. Io sono nato, quando Berlusconi è entrato in politica lo odiavo profondamente, a me quest'ultimo periodo mi sta veramente anche simpatico, perché è proprio a mio... E lei lo dice da elettore di sinistra, no? Io sono elettore di sinistra che si è astenuta quest'ultima tornata elettorale anche nella mia provincia, perché ritengo assolutamente di pochezza qualsiasi cosa, ma al di là di questo volevo dire che Berlusconi mi sembra un uomo molto simpatico, nel senso che non si va a creare una figura istituzionale, lui è così, cioè voglio dire, quando motivamente da direttore di Canale 5 e altre cose si comportava nella stessa esatta maniera, e gli italiani lo sanno, dico, ma con quale criterio si va a giudicare il fatto che il Palazzo Grazioli sia incontrollato? Ma meno male, voglio dire, è più trasparente di così, voglio dire, fa i festini, si viene a sapere, è un uomo trasparente, a mio modo di vedere non è ricattabile, se lo è, penso alla forza come persona, come uomo, insomma, di difendersi. Ho capito Giuseppe, il suo intervento è molto interessante, soprattutto perché non viene dalle fila del berlusconismo, per carità, non c'è nessun problema ad essere berlusconiani, per carità, però certamente è significativo quello che lei ha detto. La ringrazio. Francesco da Milano. Buonasera, buonasera. Dica. Io volevo fare una piccola nota su quello che ha detto, anzi ha scritto oggi Famiglia Cristiana, che secondo me rappresenta una sorta di frattura fra il rapporto del mondo cattolico ufficiale e Berlusconi, nel senso che Famiglia Cristiana dice che insomma, la moralità è scesa a zero, non si può ignorare tutto quanto sta accadendo, eccetera, eccetera. Per cui mette, anche lei fa una sorta di domanda implicita a Berlusconi, nel senso di dire si giustifichi o quantomeno insomma, faccia luce su quello che sta succedendo. Berlusconi dal canto suo ha detto che né si vuole giustificare, quantomeno lui non ha fatto nulla. Non deve di male. Chiedere scusa, sì. Questo potrebbe rappresentare da una parte la perdita dell'elettorato, parte dell'elettorato cattolico per Berlusconi, qualora appunto la Chiesa si stacchi ufficialmente dalla posizione di Berlusconi, e dall'altra ci potrebbe essere Berlusconi che dal canto suo si stacca dalla Chiesa e per cui si potrebbe vedere una minore ingerenza della Chiesa nella politica ma italiana. Guardi Francesco, lei fa dei salti eccessivi secondo me. Primo, Famiglia Cristiana non rappresenta la posizione del Vaticano, rappresenta una delle tante posizioni per fortuna all'interno del mondo cattolico. Secondo, sa, il voto cattolico, può darsi che qualcosa Berlusconi abbia perso in questa tornata, ma è difficile individuare il voto cattolico. Tra l'altro esiste anche il perdono per i cristiani, per i cattolici, per cui insomma non so, non credo che ci sia via verso un percorso come lei ha delineato. Titoli della 7. Perderei sempre così, Berlusconi replica Franceschini sul risultato delle amministrative, Di Pietro incalza il PD, i democratici decidano cosa vogliono fare da grandi, confermato il congresso ad ottobre. È morta la donna accoltellata stamattina dal marito davanti ad un asilo di Milano. Incolume il figlio di 2 anni strappato dalle braccia della madre poco prima che l'uomo compisse il folle gesto. La coppia era separata da 4 mesi. L'OCSE lancia un nuovo allarme pensioni per l'Italia. La spesa è troppo alta, il doppio degli altri paesi dell'area. Oltre 13 miliardi di redditi mai dichiarati scoperti nei primi 5 mesi del 2009 dalla Guardia di Finanza. Da Omnibus a 8:30, da Exit all'Infedele, conferme novità nel palinsesto autunnale della 7, presentato a Milano nell'ultimo anno. Bene la pubblicità e perdite ridotte ad un quarto. Eccoci alle 20:10, andiamo a Mantova. Ivo, buonasera. Buonasera. Senta, per quanti fossero preoccupati per la sicurezza del premio, io volevo dire che è una botte di ferro, perché io mi sono trovato a fare un lavoro, un grosso convegno europeo di cui doveva esserci il premier, e 2 mesi prima abbiamo dovuto dare i nostri dati al Ministero degli Interni. C'è arrivato giù un badge elettronico, proprio una cosa, non il solito pezzettino di carta, insomma, con tanto di chip così, e a conforto della sicurezza che un mio collega che al G8 l'avevano per controllo fermato, diciamo, cioè nel senso che non era partecipato ai disordini, ma in un normale pattugliamento, gli avevano trovato, non mi ricordo, su un cacciavite in macchina, insomma, cose del genere, non è potuto partecipare al lavoro. Cioè, pensi lei, dopo quando vi sento dire qualcuno, ma il premier, la sicurezza del premier. Cioè, noi qui si parlava di un'altra cosa però, Ivo, non si parlava dell'accesso ad alcune manifestazioni in cui è presente Berlusconi. Si parla dell'accesso a Palazzo Grazioli la notte durante alcune feste, questo... No, che parlavano della sicurezza, qualcuno anche ha fatto intendere in certi momenti, ma la sicurezza del premio, quale sicurezza? È dentro una botte di ferro. No, in quel caso si parlava, Ivo, del fatto che siccome c'è stato un fotografo che ha preso per un anno intero circa 5.000 foto di Berlusconi all'interno o comunque degli ospiti all'interno di Villa Certosa, appostandosi sopra una specie di collina... Sì, ma io quello... Qualcuno ha detto, e pensiamo se al posto, immaginiamo se al posto di un teleobiettivo ci fosse stato un fucile, però insomma sono un po' ragionamenti campati in aria, perché poi qualcuno appostato col fucile non ci va là sopra, che ci sarà anche un motivo. Insomma, io quando non voglio farmi vedere in casa chiudo le tende, insomma, cioè non mi sembra così grave la cosa, o lui si alzi dalle siepi, non lo so. Allora, sentiamo il servizio di Sky TG24 in questo momento sulla vicenda di Bari, inchiesta di Bari. Il fratello Claudio non sia stata favorita dalle mazzette. E l'accusa di corruzione, peraltro tutta ancora da dimostrare, è la sola al momento ufficialmente contestata all'imprenditore, che dalla stampa invece ha appreso dell'altro filone che ipotizzerebbe l'induzione alla prostituzione e non solo per le feste nelle residenze del Premier. L'inchiesta ad ogni modo va avanti. Oggi il PM Giuseppe Scelzi, che ufficialmente è in ferie, era invece come ormai da giorni nella solita caserma della finanza, forse per nuovi interrogatori. Piero Ancona, Sky TG24. Questo è il servizio di Sky TG24, che è un telegiornale, come sapete, che dà l'informazione, secondo me, in maniera impeccabile, davvero servizio pubblico rispetto alla RAI, ma questa è una mia opinione, naturalmente. Angela da Bologna. Prego, Angela. Buonasera. Volevo fare un paio di considerazioni. Innanzitutto non sento più nessuno ricordare il fatto che la signora Daddario è stata candidata e ha preso 7 voti nella lista di Fitto, dove c'era appunto anche il PDL. Sì. Quindi adesso si fa tutta questa discussione tra signora, escort, non si sa chi sia, pare che sia entrata anche con un documento falso, le registrazioni, Rossella e tutti gli altri che dicono che è inattendibile una prostituta, eccetera. No, ma scusi, nessuno ha detto che è inattendibile. Rossella ieri a Matrix, l'ho sentito anche in un'altra trasmissione, ha detto: ma questo Daddario chi è, che testimone è? Dando per scontato che una escort poi non abbia rilevanza. In realtà, appunto, mi chiedo se è stata candidata proprio con la lista in cui era con il PDL, con Fitto. Sì, quindi, una lista che appoggiava il candidato sindaco del PDL. Esatto. Quindi mi chiedo, allora, delle due l'una, se davvero nessuno sapeva chi era questa signora, come fanno le candidature? Però mi scusi, Angela, si ha l'idea in giro che, soprattutto alle elezioni comunali, che chiunque sia nelle liste venga conosciuto, diciamo, dai grandi capi dei partiti. Non è così. Le liste si fanno spesso in maniera anche così poca sereccia, mettendoci dentro un sacco di gente, chi si presenta, qualcuno li... essere, cioè, però, un sindaco viene appoggiato da 7-10 liste, insomma, non è che sia così controllato. Poco prima si trova a conoscere il presidente Berlusconi, mi sembra strano che non venga fuori che sarà candidata. Cioè, questa cosa può essere in altre realtà dove nessuno ha il contatto diretto con... Senta, se Berlusconi avesse voluto fare leggere Patrizia Daddario al comune di Bari, credo che non avrebbe avuto problemi, l'avrebbe messa... però mi sembra strano che lui non ne sapesse nulla avendola incontrata poco tempo prima, addirittura lei si è presentata con un nome falso. Ha preso 7 voti, ha capito, sì, 7 voti ha preso. Però 7. Era comunque candidata. Ho capito, ha preso 7 voti, nulla, si è votata e forse l'hanno votata i fratelli, le sorelle, qualche amico. Io non voglio fare insinuazioni, però forse appunto non è stata molto appoggiata e adesso forse parla per questo. Vabbè, insomma, lei cosa vuole dire con questo ragionamento? Non ho capito bene che c'è qualcuno che tende a screditare, utilizzando la parola mignotta, escort, la credibilità di Patrizia Daddario? Siccome volevo solamente ricordare che questa signora, appunto, di cui molti del PDL adesso stanno facendo un processo di screditazione, stanno prendendo le distanze da questa persona, invece è stata candidata. Fa parte, è nelle loro file, è stata candidata in politica. Questa è la prima considerazione. Seconda? La seconda è sul fatto della privatezza del presidente. Allora, innanzitutto, della privacy del presidente. Sì, la privacy, benissimo, la privacy rispetto appunto del privato. Sì. Allora, il suo privato, in realtà, noi abbiamo cambiato le abitudini rispetto alla politica proprio grazie o per colpa di Berlusconi, che è stato lui per primo a inviarci a casa, a spese, non si sa bene di chi, comunque a inviarci la sua storia italiana, no? Sì. Questa era una cosa che non era mai successa, quindi lui ha invaso, diciamo, del suo privato. Ho capito, però Angela, è un ragionamento che abbiamo sentito molto nei mesi scorsi, in queste settimane. Cioè, Berlusconi non può parlare di privacy perché ha fatto della sua vita privata un fatto pubblico, un qualcosa di pubblico. Questo che lei vuole dire? Lui è partito, esatto, con questa cosa. L'altra cosa, appunto, lui ha deciso di utilizzare le sue residenze private per invitare personaggi di Stato. Sì. E per questo ha avuto anche dei permessi a Villa Certosa per fare dei lavori che sicuramente, se fosse stata una residenza privata, non avrebbe avuto questi permessi e probabilmente anche i soldi. Adesso io su questo non lo so esattamente, ma sicuramente per tutto quello che riguarda la sicurezza di una residenza che non è più solamente privata. È una residenza pubblica, allora? Esatto, e questo, siccome purtroppo in questo momento mi pare che tutti parlano di privato, eccetera, nelle trasmissioni, nelle varie trasmissioni. Sì, questo non significa, che anche si trattasse di una residenza assimilata ad una residenza pubblica, è ancora controverso se si possano prendere delle foto dentro quella residenza, dentro la piscina, dentro le stanze, vicino alle stanze, nel patio. È ancora controverso, secondo alcuni sì, secondo alcuni no. Questa mattina non ci volevo credere, non è possibile, e devo dire che non c'è indignazione, per carità, c'è anche un moto di simpatia nei confronti di qualcuno che nel mezzo di un'elezione politica, in questo caso per il municipio di San Giuliano Milanese, se ne frega e va in viaggio di nozze a Cuba e non vota per il ballottaggio. Ma non stiamo parlando di un cittadino qualsiasi, stiamo parlando di uno dei due candidati, candidato sindaco della Lega, che peraltro è anche un nostro ascoltatore, si chiama Stefano Dornetti. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora Dornetti, ma è impazzito lei? Che è successo? Cioè, io non ci volevo credere, innanzitutto voglio conferme per spiegarlo agli ascoltatori. Cioè, lei era in ballottaggio si è candidato sindaco per sfidare un'amministrazione che è retta dal centrosinistra e non ha votato al primo turno per scaramanzia, giusto? Sì. Esatto. E al secondo turno che è successo? Al secondo turno è successo che l'aereo di rientro dal viaggio di nozze ha tardato parecchio, di 9 ore al rientro, poi è andato prima a Roma invece che andare su Milano, e quindi non ho più fatto in tempo per mettere la mia X sul proprio nome. Ho capito, ma negli ultimi... Dunque, lei dove è andata? Cuba, dove è andato? Io sono andato a Cuba. In viaggio di nozze? In viaggio di nozze. E quando si è sposato? Il 6 giugno, cioè il giorno dell'apertura del primo turno di elezione. Ma non poteva rimandare, Dornetti? Ma intanto la ringrazio per il pizzico di simpatia che ha dato nei miei... Beh, sì, in questo caso, per forza, uno che... Dopo tutta una trasmissione dove i valori sono messi un po' sotto i piedi, ecco che io invece ho preferito la famiglia, che poi era al centro del nostro programma elettorale, e quindi giustamente ho dato maggior spazio alla famiglia che iniziavo a creare. Però Dornetti, c'è qualcosa che non torna. Lei dice: io ho preferito la famiglia, per carità, io la capisco questa difesa. C'è qualcosa che non torna, perché in realtà ci si può sposare quando si può scegliere la data delle nozze anche lontana o leggermente lontana da una competizione elettorale. Io voglio dire, lei ha perso per 320 voti sostanzialmente senza avere fatto campagna elettorale negli ultimi 15 giorni, è così? È così, ma sul territorio comunque sono rimasti tutti. Ma lei era a Cuba in campagna elettorale, in un ballottaggio a San Giuliano Milanese, che è un piccolo paese, per carità, le porte di Milano, però non è tanto piccolo, perché insomma è un paesone. No, sono 36.000 abitanti, dove la sinistra da sempre governa e governa con punte del 60%. Quindi, cioè, lei la considerava persa? La considerava persa? E se n'è andato per questo, tutti, me lo dico. No, considerava persa mai. Tutti l'hanno considerata persa, noi abbiamo lottato fino all'ultimo, uno scarto di 320 voti è un risultato per noi. Beh, gli altri storico. Hanno lottato fino all'ultimo, mi dica la verità. Tutti hanno lottato fino all'ultimo. Gli altri, lei era a Cuba, in mezzo alle acque, in mezzo al mare. Dal tour dell'isola ho comunque seguito tutti gli avvenimenti. Sa perché ho simpatia nei confronti di questa cosa? Perché lei con tranquillità dice che lei dall'isola, da Cuba, ha seguito tutti gli avvenimenti negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. Io credo che sia un record assoluto questo qua. Cioè, qualcuno candidato a fare il sindaco, che tra l'altro perde per 320 voti, cioè non è che ha perso per poco, non ha un po' di rimpianti. Per la mia scelta assolutamente no, perché comunque era condivisa con gli alleati, con i vertici del partito e anche con i cittadini con i quali mi sono confrontato nei tutti i mesi antecedenti la campagna elettorale. Quando io abbiamo fissato la data delle nozze con Elisa, non si parlava ancora di politica, tantomeno di essere candidato per tutta la coalizione del centrodestra. Quindi c'è stato un susseguirsi di eventi. Cioè, lei non poteva cambiare a un certo punto? Sua moglie non era d'accordo su cambiare data? No, guardi, alla fine gli accordi tra le forze politiche le hanno fatte ad aprile, quasi tendenti a maggio. E allora? Quindi a quel punto non potevamo proprio più rimandare, e comunque non avremmo rimandato, perché prima in sa cos'è? Che la politica il giorno dopo la si dimentica di un nome, mentre la famiglia va avanti. No, ma questo, Dornetti, certo che è più importante la famiglia, su questo non c'è minimo dubbio, però se lei si è sposato il 6 giugno, no? Non poteva partire per Cuba ieri? E beh, poi i congedi matrimoniali sono quelli che sono, che comunque c'è un lavoro. Lei che fa, l'impiegato? Sono impiegato in una piccola azienda. La moglie è anch'essa impiegata, quindi. Ho capito, ma insomma, in qualche modo si riesce a rimediare ad una situazione di questo tipo di fronte ad una elezione, di fronte ad una campagna elettorale? No, non c'è stato verso. No, io ho preferito il valore della famiglia. No, però mi scusi, lei insiste su questa cosa qua. Il valore della famiglia, nessuno lo mette in discussione. D'altra parte, lei si è sposato il 6 giugno, il giorno delle elezioni, va benissimo. Il problema è il viaggio di nozze. Il problema, insomma, per modo di dire, il problema che riguarda i suoi elettori, soprattutto. No, le dico che comunque la città ha ben risposto, ha risposto bene, è stata contenta della cosa, ha capito e ci ha dato fiducia. Tant'è che, guardando poi i risultati elettorali, anche per la provincia, quindi Penati o Podestà non sono partiti per nessun viaggio di nozze, ecco che a San Giuliano Milanese ha comunque vinto Penati con la medesima percentuale per cui ha vinto la candidata del centro-sinistra. Quindi che è andato alle urne, ha esattamente votato per sinistra o per destra. A prescindere dal fatto che lei fosse in viaggio di nozze. Cioè chi è andato chi è andato a votare ha votato per destra o sinistra con le proprie convinzioni. Cioè lei è convinto che anche restando qui le cose non sarebbero cambiate? Direi proprio di no, anzi penso che questo fatto abbia accentuato la pubblicità intorno al mio nome. Perché lei ne ha parlato, se ne è parlato naturalmente in questi 15 giorni del fatto che lei era a Cuba in vacanze. Se ne è parlato molto prima del 6 giugno, perché comunque ci siamo confrontati con i cittadini, oltre che con le forze dell'ordine, con le forze politiche e con i personaggi di primo ordine dei rispettivi partiti. E poi ovviamente se ne è parlato nei 15 giorni, sui giornali, con i cittadini, così. Beh, insomma, è quasi una strategia. Potremmo dire di sì, però non è stata vincente, va bene, ok. Dornetti, nessun rimpianto, nessuno, proprio nessuno. 320 voti là, mentre lei era bere e mojito, stava sulla spiaggia steso al sole, i suoi che sudavano, le 7 camicie qui per strappare un voto in più, un voto in meno, niente, nessun rimorso. Nessun rimpianto, perché siamo tutti convinti che non sono stati questi 15 giorni a stabilire la vittoria o meno, ma è stato tutto un lavoro che ci ha portato a un brillante risultato su San Giuliano. Il suo avversario che si chiama... Che poi una donna, Luigina Greco, che ne ha approfittato di questa cosa oppure no? Beh, quello sicuramente, sì, beh, ovviamente... Uno scandalo, lui a Cuba, in viaggio di nozze, sta al sole, eccetera, se ne frega di San Giuliano Milanese, no? Esatto, questo è normale, ci sta in una... Vabbè, fa parte del gioco, Come che si strappano i manifesti, ma voglio dire, sta... E lì, quindi... Faccio tutti i miei complimenti alla candidata che ha vinto. La ringrazio molto, buona serata, caso unico al mondo. Ma insomma, voi l'avete mai sentita una cosa del genere? Io francamente no. Candidato a sì, c'è qualcos'altro sotto, io sono sicuro che c'è qualcos'altro sotto, non è possibile che uno in piena campagna elettorale come Stefano Dornetti, candidato della Lega, se ne vada in viaggio di nozze, oppure c'è una strategia, magari dicendo che sono in viaggio di nozze prendo più voti, non lo so. C'è addirittura un'ultimora sull'inchiesta di Bari, la Daddario, che ormai è un'interlocutrice dei media. Smentisco Berlusconi, non si capisce a proposito di cosa, però vi aggiorneremo. Titoli del TG2. Berlusconi soddisfatto per i ballottaggi ironizza: se per l'opposizione è una vittoria, vogliamo sempre perdere così. Premier all'attacco sull'inchiesta di Bari. Espulsi dall'Iran due diplomatici inglesi, Obama condanna la repressione, il mondo indignato e sconvolto, dubbi sul voto ma nessuna ingerenza, resta aperta la porta del dialogo. Nel giallo di Grado gli spunta un foglio con minacce di morte. Era nella casa della donna scomparsa con la figlia tredicenne. Oggi nuovo sopralluogo con i carabinieri del RIS. Appalti, bilanci e cattedre. La gestione del Policlinico di Roma nel mirino della magistratura. Una ventina di indagati. Anche il direttore generale Montagudi. Non ho nulla da temere, dice. balene, foche, tigri, tartarughe e squali, sempre più le specie animali a rischio di estinzione, colpevole ancora una volta l'uomo che le protegge, ma solo a parole. Benissimo, dove andiamo? Andiamo a quello che dice la Daddario. Smentisco che ciò sia accaduto a proposito delle affermazioni di Berlusconi di oggi. In un'intervista rilasciata oggi al settimanale afferma la Daddario, il Presidente del Consiglio sostiene, riferendosi a me, che c'è qualcuno che ha dato un mandato molto preciso e benissimo retribuito a questa signora. Smentisco che ciò sia accaduto. Daddario invita quindi l'onorevole Berlusconi, qualora sia in possesso della minima prova a sostegno della sua affermazione, a volerla trasmettere all'autorità giudiziaria. Se così non fosse, vorrei pregarlo di astenersi da simili affermazioni. Beh, ormai insomma è proprio un confronto ed è per questo che penso che abbia ragione Ferrara quando dice che Berlusconi dovrebbe fare un discorso alto, un discorso chiaro, un discorso che insomma affronti quella che è una campagna nei suoi confronti, ma la affronti in maniera seria, non evitando di parlarne, non concedendo interviste a chi. Credo che sia un errore, non lo so, non sono qui per dare consigli. Carlo da Macerata. Sì, buonasera. Rapidamente volevo dire che l'intervento dell'ascoltatore di questa mattina sì, è chiaramente da censurare, però penso che sia così l'espressione colorita. Ma quale intervento, mi scusi Carlo? Dell'intervento stamattina nei confronti di Buonaiuti. Ah, su radio anch'io. No, guardi, io non ho censurato niente, io non penso che sia un'espressione da censurare, non dico affatto non questo. Non è da censurare, anche perché noi siamo stati abituati a comportamenti da parte di personaggi, con riferimento per esempio a Vittorio Sgarbi, che ne ha costruito un personaggio. Io mi ricordo i primi anni interveniva con una veemenza, con parole molto forti e sapienti giochi di regia, addirittura lo riprendevano quando è diventato un personaggio, anche forse per i suoi meriti, ma probabilmente anche per questo aspetto, usando espressioni e comportamenti. Sì, naturalmente Carlo, mi scusi, c'è qualcuno che poi se lo può permettere, che usa linguaggi in un certo modo, c'è qualcun altro che utilizza i linguaggi in un altro modo. Io se mi mettessi a fare lo Sgarbi della situazione non avrei credibilità. C'è qualcuno che certi linguaggi, certe parole se le può permettere, per carità, magari sono censurabili lo stesso, non so, in base ad un criterio magari di volgarità, e poi chi giudica la volgarità e quale sia la volgarità, non lo so. Però no, non è che le persone siano tutte sullo stesso piano, c'è modo e modo di dire le cose, naturalmente, no? A mio avviso fa parte della strategia messa in atto dalla sinistra, che non avendo un programma ha capito che naturalmente non può essere un fatto privato e rimanere privato, e per mesi sia la Repubblica sia l'Unità non hanno fatto altro che girare intorno, premettendo come vergini appena uscite dal convento che loro non si sarebbero interessate di gossip, ma in realtà costantemente riportando, sottolineando, alludendo, facendo. Quindi è chiaro che avrebbe avuto nell'opinione pubblica un aspetto, quindi è una strategia. Adesso io non so se questi fatti sono avvenuti nel momento. Vabbè, lei dice insomma c'è una campagna molto esplicita da parte della Repubblica e cui si è aggregato anche e andato dietro anche il Partito Democratico per colpire l'immagine del Presidente del Consiglio, ma questo non c'è dubbio che sia così, al di là poi del merito. Nazareno, provincia di Ascoli Piceno, interventi più brevi perché ci abbiamo verso la conclusione. Nazareno, prego. Buonasera Cusani. Dica. Sento, ho perso l'ultima mezz'ora di trasmissione, non so se avete parlato del servizio del TG1 di questa sera, proprio sull'intervista di Berlusconi a chi, sul caso Daddario. No, guardi, perché sono in diretta, non è che riesco a guardare TG1. No, che è successo? Anche qui un'altra cosa sul TG1. Siccome no, visto l'intervento del direttore del TG1 che ha detto che lui non aveva parlato di delle notizie sulla Daddario, perché parlava di gossip, eccetera, aspettavo che neanche oggi ne parlasse. Invece ha trasmesso un servizio di circa, non so, 3 minuti con foto del Presidente del Consiglio che sono nel piano con il nipote, eccetera. praticamente riportando tutta l'intervista che ha fatto a chi, dove lui accusa la Daddario, eccetera, eccetera. Ma poi io mi domando, un ascoltatore del TG1 che capisce vedendo soltanto la replica se non sa di cosa è stato accusato? Nazareno, comunque... ho l'impressione che lei su questo abbia ragione, se questo è accaduto, cioè se non ragazzi, se prima no, ma adesso poi andremo a verificare, ripeto, io... A me non piace questo tipo di indagini su come il TG1 tratta la notizia, eccetera. Il problema di fondo è sempre lo stesso, cioè quello della privatizzazione della RAI, di togliere la RAI ai partiti, insomma, un direttore vale l'altro, insomma, non è questo il punto. Certo, se è vero, come lei ci ha raccontato, che poi io ha fatto... stavo ascoltando il professore in macchina e sì. Ho sentito l'intervento di Liguori. Poi sono inserito a casa, ho acceso la TV, ho acceso la RAI 1 sintonizzato, sì, TG1, sì. Non pensavo proprio che si parlasse di... il caso da dare, cioè dell'intervista di Berlusconi a chi, certo. No, è stata riportata completamente senza poi una voce. Ah, poi è stata, ci sono stati 10 secondi di il giornalista ha riportato le frasi di Don Sciortino, credo il direttore di Farina Cristiana, sì, sì. Non riportando tutto quello che ha detto Sciortino, però una piccola frase seguita senza quasi spazio temporale da due contro diciamo due repliche di Lupi, credo, e di una e Sacconi che hanno rimbrottato il vabbè Nazareno, questa è la sua, come dire, la sua disamina su quello che è accaduto stasera al TG1. Io vorrei evitare così di fare ogni sera una sorta di screening su quello che avviene all'interno del TG1, però per carità, non è che la voglio impedire di fare questa operazione. Dico solo che a me particolarmente non interessa moltissimo, non sono appassionato di questa materia, ma non è che lo dico, lo dicevo anche prima quando c'era Riotta al TG1 e c'era Prodi al governo. Daniele, provincia di Trieste. Sì, buonasera, volevo intervenire circa le motivazioni che ha usato il candidato sconfitto sindaco nella provincia di Milano. Non ho ben capito il suo ragionamento, perché va bene, posso capire che per lui la famiglia sia un valore importante e c'è incentrata una campagna elettorale, però è anche vero che se ha deciso di candidarsi o comunque ha condiviso con il partito o i partiti o coalizione di candidarsi, deve anche sapere che il diritto dovere del cittadino è presentarsi e votare, il diritto dovere del candidato è di seguire la campagna elettorale, comunque di votare lui per primo, perché va bene tutto, non voglio scendere nella retorica, però è anche vero che comunque è stato difficile conquistare il diritto di votare, è difficile conquistarsi il diritto di farsi eleggere. Sposarsi è vero, è un valore del matrimonio, si è sposato, non è andato a votare, però partire poi per farsi le vacanze, insomma, non so, soprattutto col fatto che è no, la famiglia, la famiglia, la famiglia, i valori della famiglia non c'entrano niente, perché l'abbiamo già detto, questo gliel'ho detto io, non c'entra assolutamente nulla, perché la questione del viaggio di nozze con il matrimonio eccetera non c'entra assolutamente niente. No, è disarmante il fatto però che si sia presentato, oddio, mi è sembrato, poi non sono riuscito a sentire bene perché purtroppo non c'era campo tutto sì. La dura per l'intervento. No, guardi Daniele, io non riesco, francamente c'è qualcosa che non mi torna, perché insomma, uno che poi perde per 320 voti, che non fa campagna elettorale personalmente negli ultimi 15 giorni, che se ne va a Cuba in vacanza, secondo me sarebbe, doveva essere sanzionato in maniera più pesante dall'elettorato. Questo non è avvenuto, ha perso per 320 voti, tant'è, ma noi trattiamo queste cose con grande simpatia nei confronti di tutti, non sono cose drammatiche. Certo è significativo, è curioso, credo che sia addirittura una prima assoluta, credo, nella storia della Repubblica, un candidato che ha un ballottaggio se ne va a Cuba invece di fare campagna. Dino da Rovigo. Dottor Cruciani? Sì. Buonasera, buonasera, già due o tre volte che ci sentiamo. Io chiamavo in merito, ho ascoltato stasera per radio i TG, che si parlava che l'Ocse ha sanzionato le pensioni in Italia, cioè una spesa troppo elevata, se non ho capito male. Non lo so, non ho visto bene, può darsi. Sì, ha detto nel TG che... Sì, sì, allora... Non più di un mese fa, un mese e mezzo... Sì, sì, pensioni, l'Ocse lancia l'allarme, in Italia la spesa è più elevata, sì. Il nostro, forse in merito a una... così a una provocazione di Casini, il nostro direttore dell'INPS o sì, una persona ha detto che i conti erano a posto, che era tutto... Allora io dico, ma che, secondo me effettivamente ha ragione l'Ocse, cioè ci vuole poco fare un po' di... Però a prescindere da quello, come fa una persona a quel livello lì dire una cosa e essere smentito completamente. No, mi scusi se la correggo, però il fatto che i conti dell'INPS possono essere più o meno a posto non è in contraddizione con il fatto che noi abbiamo una spesa pensionistica che è il 14% del PIL, come dice l'Ocse, cioè il paese, l'Italia è il paese col più alto livello di spesa pensionistica. Le due cose possono anche non essere in contraddizione, ma devo chiudere questa sera, ci sentiamo domani 18:30.